In questi giorni sono successe cose che mi hanno sorpreso. Cose che speravo succedessero e altre che avrei preferito non accadessero. Però a quello che è avvenuto ieri proprio non ci avevo mai pensato. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Effettivamente non avevo pensato a diverse delle cose che mi sono successe negli ultimi giorni, nell'ultimo anno anche direi, a cominciare dal liberarmi di tutto e ritrovarmi senza niente ed essere ospite ogni giorno di un amico diverso, non ci avevo pensato, ma soprattutto non avevo pensato agli sviluppi di questa cosa. Uno di questi sviluppi è che evidentemente una persona che decide di dire sempre solo la verità viene presa, l'ha detto, la dico male, ma viene presa come un confessore, come uno a cui si possono raccontare delle cose. Non saprei dire per quale motivo, però evidentemente faccio questo effetto, perché ieri quando sono uscito dalla radio, appena finito il programma, verso le 5:30 del pomeriggio, mi sono trovato davanti un signore, un ragazzo che avrà avuto una quarantina d'anni, che mi aveva già scritto via mail, poi adesso vi racconterò meglio com'è andata, e che mi chiedeva di incontrarlo. Niente, me lo sono trovato qua sotto e lui mi ha chiesto proprio di fare quattro chiacchiere, perché doveva raccontarmi delle cose. Insomma, adesso vi racconto com'è andata. Poi sono tornato a casa, a casa non mia ovviamente, a casa di Simona da cui sono ospite, e lei mi ha detto che evidentemente è proprio per questo motivo qua. Perché anche a lei, da quando ci frequentiamo più assiduamente per via dell'ospitalità, viene di raccontarmi delle cose, di prendermi come un confessore. Non so se mi è mai capitato. 800 24 00 24 349 238 6666. Avete presente quei momenti in cui non si capisce bene perché, ma un amico che conoscete da anni, in realtà spesso succede con gente che non conoscete, vi piglia e decide che voi siete il confessore giusto a cui confessare tutte le robe che c'ha lì nella pancia o in testa da una vita, che non si capisce perché non ha mai confessato nessun altro, e sceglie voi. Non è così facile, c'è una responsabilità legata al diventare il confessore. 800 24 00 24 349 238 6666. Se avete voglia di raccontarmi quando vi siete trasformati in un confessore, io vi garantisco anche l'anonimato, non lo diciamo a nessuno, diciamo solo da dove chiamate. Se volete neanche quello, dico, l'importante è che mi raccontiate perché avete, se l'avete capito, siete stati scelti come dei confessori. Ieri poi appunto Simona, che come vi raccontavo è patita di serie televisive e quindi me le sta propinando via una l'altra, sembra avere una serie televisiva per ogni cosa che accade. E ieri, mentre le raccontavo quello che mi è successo dopo la diretta, cioè il fatto che una persona è venuta a cercarmi e mi ha confessato delle cose, mi ha detto: aspetta, c'ho la serie giusta per te. Io lo tradisco con un altro uomo da molto tempo. E come mai non me ne ha parlato prima d'ora? Lo faccio in ogni seduta. Non mi dica che non se n'è accorto. Pensavo che mi sarebbe passata, che fosse solo un'infatuazione. Invece sta peggiorando. Lei è diventato il centro della mia vita. Ecco, diciamo, in questo caso non aiuta molto il doppiaggio dei doppiatori, che tutto... Mi toglie un attimo la base. Forse non gliel'ho mai detto, dottore. Non aiuta molto. Però questa è una serie americana che probabilmente avrete visto e ne avrete sentito parlare, che si chiama In Treatment. È in realtà tratta da una serie israeliana, il format mi pare sia proprio israeliano, ed è una cosa molto semplice. Il protagonista è uno psichiatra o uno psicologo che fa 5 sedute a settimana, da lunedì al venerdì, e da lunedì al venerdì vengono trasmesse queste 5 sedute, durano mezz'ora l'una e ogni giorno c'è una persona diversa. Il lunedì c'è sempre la ragazzina, il martedì c'è sempre la coppia e così via, e il venerdì mi pare, poi non le ho viste tutte ieri con Simona, il venerdì mi pare sia lui ad andare da uno psicologo, lo psicologo è chiaramente la figura di riferimento, no? Cioè o sei un prete o sei uno psicologo e ti sorbisci tutto. A questo proposito, giusto, faccio un veloce inciso, c'è gente che decide di fare il confessore nella vita, no? Che sono gli psicologi e i preti. Se siete quindi un prete o uno psicologo, 800 24 00 24 349 238 6666. Mi piacerebbe quasi di più sapere perché vi siete scelti quel lavoro piuttosto che non che cosa vi racconta la gente. Insomma, in questo serie televisivo si racconta soprattutto qual è il modo in cui la gente racconta le cose, in questo caso a uno psicologo che paga, a un medico che paga, proprio perché stia lì ad ascoltarsele. Prima però, sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, ho proprio chiesto la stessa cosa che vi sto chiedendo, che quando vi siete trasformati in dei confessori. Antonella mi scrive: un medico che vedevo per motivi di lavoro, quindi tipo professionali, mi raccontò del weekend di festeggiamenti per il suo 30° compleanno. Stanza al Vittoriale sul lago di Garda, due amiche saffiche e compiacenti che si amavano davanti a lui appoggiato alla ringhiera del balconcino mentre fumava il sigaro e il sole tramontava. Raccontato con una dovizia di particolari. Imbarazzante! Forse per te, Antonella, imbarazzante, non credo per lui. Matteo: mai confessato niente se non prima dei 10 anni per obblighi religiosi imposti, poi non ne ho più avuto bisogno. I problemi con la mia coscienza sono sempre stati risolti attraverso la razionalità. Capisco però che non siamo tutti uguali. E poi mi scrive Marco invece. Marco scrive: appunto, sono psicologo clinico, sto studiando psicanalisi a Milano. Ogni persona che conosco si confessa con me e io vorrei solo una serata con amici. Pronto Marco? Buongiorno Matteo. Ciao, buongiorno, grazie per essere qui e soprattutto per avermi scritto il messaggio e aver la possibilità di chiacchierare. Allora Marco, innanzitutto, tu sei uno psicologo o lo stai diventando, stai studiando per? Sono già psicologo e sto studiando alla scuola di specializzazione in psicanalisi. Ecco, allora la prima cosa che mi viene da chiedere è: di solito dicono che chi studia psicologia è perché lui stesso ha dei problemi e quindi ha bisogno di elaborarli, di studiarli. È così? Però tu stai bene? Sei a posto? Beh, vorrei fare questa rettifica. Credo che chi studia psicologia, chi è in grado poi di fare questo mestiere, è perché abbia una curiosità un po' più particolare sul perché delle cose. È incredibile, perché voi sentite Marco così pacato e così tranquillo, invece Marco ha un profilo praticamente da rocker. Se vi capita di andare sul suo profilo Facebook, che si chiama, come si chiama Marco, scusa, dillo tu? Marco Baby Shamble. Baby Shamble in onore del gruppo di Pete Dirty, giusto? Sei, ami il rock indipendente. Andate a vederlo, perché vi assicuro che se lo vedete sembra più un folle rocchettaro che non uno psicologo. Però Marco, la cosa divertente è proprio questa, no? Che tu mi dici che la gente approfitta del fatto che tu fai questo mestiere per raccontarti qualsiasi cosa. Sì, io vivo a Reggio Emilia ma lavoro a Bologna e studio, come hai appena accennato tu, a Milano. Di conseguenza il treno è il metodo di trasporto che uso quotidianamente per spostarmi. Sì. Ed è soprattutto in treno che capitano le chiacchierate o le confessioni di cui ti accennavo su Facebook, perché mi capita, andando a lavorare o tornando, di sfogliare libri, correggere appunti, scrivere alcune delle mie cose lavorative. Quindi Marco, in realtà parliamo di gente che proprio non ti conosce, cioè che ti incontra sul treno. Esattamente, esattamente. E cosa ti confessano? Appena intuiscono la mia professione, è come se fosse un lascia passare il fatto di incontrare uno psicologo, come se fosse un lascia passare alla confessione, come se fosse un diritto. Prima tu mi hai raccontato una cosa divertente, come se incontri un muratore e gli chiedi: scusa, com'è che faccio a tirare a piombo questo muro? Sì, oppure magari si incontra un pasticcere per strada e si sente un languorino e gli si chiedesse quasi di fare cucinare una pasta lì sul momento. Però Marco, raccontami l'episodio che mi raccontavi prima, che era molto divertente. Il giorno in cui tu stai venendo a Milano a discutere la tua tesi di laurea, quindi magari in treno vorresti ripassare, giusto? Stavo esattamente ripassando alcuni appunti, stavo rileggendo la mia tesi e la signora che era seduta di fianco a me, e puoi immaginare comunque la tensione di quella mattinata che precedeva la discussione, la signora che ha sbirciato il materiale che stavo leggendo, la mia tesi era la transizione paterna alla genitorialità. Lei, in quanto donna, e poi mi ha confessato essere madre e moglie, è partita con una filippica iniziale di accuse e represse nei confronti del marito, e poi si è sbottonato un po' di più, mi ha confessato alcuni pianti, alcune sofferenze fatte nell'angolo magari della camera da letto o di notte in silenzio. Ecco, e vorrei ricordare Marco, tu questa persona non l'avevi mai vista prima. Mai vista, assolutamente. Marco, grazie mille, tu rimani da queste parti, invece rimani da questa parte, intendo da queste parti di Io Sono Qui. Invece se avete voglia di vedere Marco, andate a vederlo, perché vi assicuro che è una grande sorpresa. Ciao Marco, grazie. Arrivederci. Ciao, alla prossima. Sono vestito elegante, o meglio, sono vestito nel modo che per mia madre e mio padre è elegante. Pantaloni bianchi, camicia rosa e giacchetta blu. Io però mi sento un pinguino dell'acquario di Genova. Ho 7 anni e oggi ho la mia prima confessione. La Rita, la nostra catechista, dice che la confessione è il primo passo verso il percorso che ogni buon cristiano deve intraprendere, quello dei sacramenti. Confessione, prima comunione, cresima e via così, fino al matrimonio. Oggi è una giornata di festa, c'è un bel sole e tutti i miei compagni sono in chiesa con i loro parenti. Mio papà ha prenotato un rinfresco al ristorante delle Sette Fontane, nel Parco del Ticino. Ci sarà da mangiare, torte e panini imbottiti. E potrò togliermi sti vestiti e giocare a pallone nel prato. Al momento però, quel momento lì mi sembra lontanissimo. Sono qui in chiesa, tra due turni toccherà a me e sono terrorizzato. Ormai è quasi un mese che penso a cosa dire il giorno della mia prima confessione. Addirittura ieri abbiamo fatto le prove. Ora però sono davvero nel panico. Mi sembra la cosa più innaturale del mondo andare da un vecchio prete e raccontargli i fatti miei. C'è però un'altra cosa che mi imbarazza. È quello che può pensare di me lui, dopo che gli ho raccontato i miei peccati. Don Clemente mi conosce da sempre, praticamente. Penso che io sia un bravo bambino. Dopo oggi sono sicuro che la sua idea di me sarà definitivamente compromessa. Ma poi, io come faccio esattamente a sapere il numero preciso di parolacce che ho detto? O le volte in cui ho mancato di rispetto a mia nonna o a mia sorella? Che so, il bacio sulla bocca che ho dato alla Sandra Germinati. Sì, quello per forza è peccato. Ma dico, non fare i compiti, copiare durante i compiti in classe, quello è peccato. Ecco sì, l'unica certezza che ho raggiunto nelle riflessioni di questi giorni è peccato tutto ciò che non posso raccontare a mia madre. Questo però vuol dire che ho fatto un sacco di peccati, merda. Ah, beh, ecco un altro, dire merda è sicuramente peccato, dirlo in chiesa poi probabilmente vale doppio. Ecco, all'improvviso la tendina viola del confessionale si apre e Paolo Cotti esce, con la faccia tutta mogia. Ecco, è arrivato il mio turno. Mio padre mi appoggia la mano sulla spalla come a dire: vai, tocca a te, fatti onore. Raggiungo il confessionale, mi inginocchio, sento la voce di Don Clemente che dice: dimmi pure i tuoi peccati, figliolo. Io lì alzo gli occhi e quando vedo la sua faccia rubizza ho, credo, una delle illuminazioni più geniali che abbia avuto nei miei primi 7 anni di vita. Una di quelle epifanie che ti permettono di aggirare un ostacolo che sembrava insormontabile. Ecco, improvvisamente sono un eroe e posso affrontare il mio avversario con le sue stesse armi e batterlo. Chino la testa, incrocio le mani e attacco l'elenco ufficiale dei miei peccati. Ho pronunciato il nome di Dio invano. Ho disobbedito al padre e alla madre. Ho detto falsa testimonianza. Ho desiderato la fidanzata da altri. Ho commesso atti impuri. Ho desiderato le cose degli altri. Quello che vi ho raccontato è il ricordo della prima volta che mi sono confessato. In un confessionale, intendo, con un prete che stava dentro ad uno sgabbiotto in legno. Ve l'ho raccontato perché questa è stata la prima idea che ho associato al termine confessore. Cioè, un signore che sta lì e che dedica il suo tempo ad ascoltare i tuoi peccati. O più in generale le tue storie. Eppure da quando ho cominciato questo programma, questa idea sta cambiando. Sono passate poco più di 2 settimane dalla prima puntata. Quindi da quando ho iniziato il gioco della verità. In questi giorni sono successe cose che mi hanno sorpreso, cose che speravo succedessero e altre che avrei preferito non accadessero. A quello che è avvenuto ieri però proprio non ci avevo pensato. Avevo già ricevuto alcune mail in cui ascoltatori mi raccontavano le storie della loro vita, avvenimenti piccoli o grandi, cose più o meno ordinarie. Questo però credo sia normale, perché da quando faccio questo lavoro, da quando lavoro in radio, spesso mi è capitato di leggere cose molto intime di persone che non conoscevo, che però ascoltavano il programma. Qualche giorno fa però è arrivata questa mail. Caro Matteo, non avevo mai sentito il tuo programma dello scorso anno, ma quando per caso ho ascoltato la puntata in cui dicevi di avere deciso di non dire mai più nemmeno una piccola menzogna, è come se fosse partita in me una crisi irreversibile. Non sono un pazzo e nemmeno un molestatore. Ho poco più di 40 anni, sono sposato, ho una figlia, un lavoro e sono una persona equilibrata. Ma questo aspetto della verità e della menzogna nella vita di tutti i giorni mi tormenta quotidianamente e avrei bisogno di incontrarti. La mail è firmata ovviamente, ma chiaramente non leggerò il nome. Ora, quando qualcuno che ascolta il programma mi chiede di incontrarlo, io non so mai come comportarmi. Cioè, da una parte mi sembra brutto dire di no, dall'altra però c'è una forma di privacy personale che io vorrei preservare e non farla andare oltre la diretta del programma. Quindi ho letto questa lettera, poi l'ho riletta e ho deciso di fare passare qualche giorno per rifletterci a freddo. Però non ho avuto il tempo, perché ieri quando sono usciti dalla radio, alla fine del programma, un tizio distinto mi è venuto incontro e mi ha salutato, dicendomi che era l'autore di quella mail, che aveva voglia di parlarmi e che se non mi dispiaceva mi offriva un caffè. Ora, a quel punto io non potevo più dire di no. Il bar della radio qui è un bar aziendale, non è luogo adatto per sedersi ad un tavolino e fare quattro chiacchiere. Quindi gli ho detto di seguirmi e ci siamo incamminati verso Piazza Amendola. Lui era piuttosto impacciato e dalle prime parole ho capito subito che non era così avvezzo a incontrare conduttori radiofonici e che era più imbarazzato di me. Abbiamo camminato una decina di minuti sotto le piante di Viale Monterosa, chiacchierando del più e del meno, del suo lavoro, del mio, del tempo che è ancora tiepido e che settembre sarebbe il periodo giusto per andare al mare, più di luglio o di agosto. Lui si toccava le mani e guardava fisso la punta delle sue scarpe. Quando finalmente abbiamo raggiunto i tavolini all'aperto di un bar, ci siamo seduti, abbiamo ordinato un cappuccino e un caffè, lui ha spento il cellulare e ha cominciato a raccontarmi. Io faccio il consulente finanziario da 15 anni ormai, sono diventato anche e soprattutto il confessore dei miei clienti. Ma quando hai confessato i tuoi peccati, hai confessato anche di essere interista? Quello no. 800240024 349 238 6666. Quella volta, o tutte le volte che sei stato eletti a confessori, ora la borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. La foto è un lungomare. Ci sono due gabbiani che volano nel cielo, il mare è increspato di un azzurro fortissimo e poi c'è sulla strada una panchina, è una panchina bianca ed è doppia, nel senso che ci si può sedere di qua, guardando quindi l'obiettivo, oppure di là, guardando il mare. C'è una donna che è seduta proprio dall'altra parte, quindi è di spalle, non si vede in faccia. Ha la pelle abbronzata, i capelli scuri direi, castani, non si capisce per via del sole e sono legati in una coda. È proprio al centro della foto. Davanti a lei c'è la spiaggia, che però è sotto il livello della strada, del lungomare, è una passeggiata. Si vedono delle persone che prendono il sole, alcuni che fanno il bagno, però la spiaggia non è particolarmente affollata, è una spiaggia di ciottoli, tra l'altro. Quindi probabilmente non è alta stagione. Potrebbe essere primavera inoltrata, tipo maggio, o magari in questo periodo qua, potrebbe essere settembre. C'è anche una torretta del bagnino, però non è una torretta da bagnino italiana, perché innanzitutto è troppo bella e troppo curata, e poi perché c'è scritto Saffeur Pompier, credo. Quindi è chiaramente la Costa Azzurra. La donna seduta però non è vestita da spiaggia, ha su delle scarpe, credo dell'All Star, sì, non si vede bene. Sta guardando il mare e potrebbe essere di passaggio, potrebbe essere in gita. Magari potrebbe essere invece che è seduta lì perché sta aspettando qualcuno. È una bella foto, è piena di colori. È sul sito di Radio 24 se volete vederla. Poi si legge la didascalia e si capisce tutto. La panchina sotto casa. Io sono qui, rivolta verso il mare. Antonella. Questo è E voi dove siete? Ogni giorno c'è una foto, è sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui e ve la racconto. È un modo per cercare di capire dove sono io, lo capite? E per cercare di capire dove siete voi. Mi basta una foto, una sola, che sia appunto come ha fatto Antonella, la panchina dove magari passa il tempo prima di andare al lavoro o nella pausa pranzo, però può essere la vostra scrivania, può essere vostro figlio, può essere il campo di calcetto dove passate la serata. Basta che sia il luogo in cui vi trovate in quel momento, in cui vi sentite. in quel momento. Alcuni hanno semplicemente mandato foto delle proprie vacanze. E voi dove siete? C'è un profilo Facebook che si chiama Matteo Caccia Io Sono Qui. Lo trovate anche accedendo dal sito di Radio 24, chiaramente, la pagina di Io Sono Qui. C'è un link a quel profilo. Le caricate sulla bacheca, è molto semplice. Poi io le sposto direttamente in questa cartella. È una cartella che adesso ha già quasi un centinaio di foto. Abbiamo cominciato lunedì, credo, no, Tiziano? Oggi è giovedì, quindi in quattro giorni sono arrivate un centinaio di foto e io cercherò di raccontarvele tutte. Comunque potete vederle, ogni giorno ne scegliamo una, le sceglie Vittoria, quindi non guardate me, le sceglie lei, e le trovate sul sito radio24.it alla pagina Io Sono Qui. 800240024 oppure 349-238-6666. Qui mi scrivono non solo psicologi e prelati, caro Matteo, ma anche gli avvocati si sentono vomitare le confessioni dei loro clienti. Ciao Nico. E poi devo dire, l'SMS che ho preferito è anche fare karaoke alla sera come faccio io è un po' da psicologi. Ti vengono a dire: ero giù di voce, giornata storta, non ero tranquillo per cantare, e devo avere una risposta per tutti. Ciao Matteo. Pronto? Sì. Ciao, come stai? Ciao Matteo, io non mi chiamo Matteo, e ciao Matteo era rivolto a te. Ciao Matteo, era rivolto a me, l'avevo capito. Tu come ti chiami? Un altro santo, diciamo, ecco. Cioè? Un altro santo, Piero. Piero, ok. Piero, tu fai karaoke nel senso che hai un locale? No, nel senso che faccio un lavoro normalissimo, sono l'agente di vendita di commercio, sì. E poi alla sera frequento i locali, ho dei locali fissi dove appunto faccio serate di karaoke. Ma scusami, le serate di karaoke vuol dire che tu canti, però soprattutto fai cantare, giusto? Eh sì, sicuramente. Meno canto io, meglio è. Nel senso che vuol dire che c'è movimento, ci sono persone che hanno voglia di salire. Esatto. Ma quindi scusami, però, il fatto che uno ti dica scusami, ero giù di voce, è una scusa, giusto, semplicemente? Che però poi si aggancia ad una confessione. Esatto, Matteo, succede questo. Magari la canzone non è andata bene, specialmente le ragazze hanno, che ne so, un brutto periodo, oppure hanno appena finito una storia. Nel momento in cui finiscono la canzone e mettono giù il microfono nella console, vengono lì in un orecchio e mi dicono: ma non è andata bene, sai, sono un po' giù. Ecco, e allora lì, da lì parte, come dire. Ah, perché tu giustamente fai finta di interessarti, scusami, ma come mai eri giù? Eh beh, certo, tra l'altro sono una persona che si confessa poco, però ascolta molto, hai capito? Mi sa che è quello che frega, è di solito, che è stare lì ad ascoltare. Dimmene una che ti hanno detto recentemente. No, niente di particolare, però magari si tratta solo, ti ripeto, di un periodo, di un fine rapporto, di una lasciata di un ragazzo, magari non gestita bene. Una lasciata. Senti, ma senti, invece nel tuo lavoro normale, quello di gente di commercio? Eh beh, anche lì. Anche lì? Dire, eh. Sì. Cioè, scusa, però lì cosa, tu che tipo di cose vendi? Ma io sono sostanzialmente prodotti per l'industria, per cui dalle cinghie ai cuscinetti. Ecco, com'è che uno che viene da te a comprare le cinghie poi ti racconta dei fatti suoi? Ma perché, per il discorso di prima, quando sei, diventi una persona, un riferimento, che ascolta, esatto, poi man mano che passano i giorni, il tempo, i mesi, gli anni, poi ci si sbottona, no? Chiaro. E tu, quindi, però, tu però continui a tenerti sulle tue, tu confessi pochissimo. Ma ho anch'io delle persone di riferimento. Grazie mille. Di dove sei tu? Di che parte? Di Vicenza. Grazie mille, buona giornata. Ciao Matteo. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Andiamo da Italo, in provincia di Genova. Pronto Italo? Pronto? Ciao, come stai? Com'è? Tocca a te, sì, sei tu, sì, Italo. Buonasera. Buongiorno, sì, ciao. Tutto bene. Dove ti trovi in questo momento, Italo? In questo momento sono in una zona di campagna, in comune di Rapallo, provincia di Genova. Perché tu sei di Rapallo? Sì, di origine sì. E qui, ma non stai lavorando quindi in questo momento? No, in questo momento no. E tu però, leggo qui che mi scrivono che tu lavoravi in banca. Per una vita il funzionario, il dirigente di banca, il direttore. E che, scusami, anche qui perdonami, ma che cosa ti viene a confessare una persona? Tutto. Cioè? Tutto di più. Tutte le cose personali, le cose più impensate. In realtà si parte magari da un discorso di soldi, perché in banca si trattano, si commerciano quattrini e servizi. Per cui c'è chi ne ha troppi, c'è chi ne ha pochi, c'è chi non ne ha, chi vorrebbe averne di più, chi non ne trova, E poi da lì si parla, ti sciorinano davanti, ti aprono le loro cataratte di problemi, di drammi. Di... Ma quindi scusami Italo, ma secondo te questa cosa ha a che fare con il fatto che il denaro è una cosa comunque molto intima, perché racconta qualcosa di te? Il denaro è una cosa intimissima. Ti ricordi una cosa? Non è tanto il denaro che è una cosa intima, perché non lo è affatto, il denaro è una merce. Che compra altre merci. Beh, però avercelo o non avercelo racconta qualcosa di te, probabilmente. È questo il problema. Il problema è la mancanza del denaro o l'averne troppo. Ti ricordi, Italo, una storia in particolare che ti ha toccato? Per me come... ne ricordo tante, ma non ne racconta nessuna. Perché noi siamo riservati. Ah, certo, voi delle banche, dopo tutto quello che avete fatto, siete riservatissimi. Noi siamo riservatissimi. Italo, grazie mille, buona giornata. Buonasera. Ciao, alla prossima. Rimaniamo a Milano e andiamo da Elisabetta. Pronto? Ciao. Ciao Elisabetta, come stai? Bene, grazie. Brava, tu lo fai di mestiere, finalmente. Sì, lo faccio di mestiere. Sì. Cioè, nel senso che non fai un mestiere, non fai il karaoke e ti vengono a raccontare, no, i fatti propri. Tu fai la psicoterapeuta. Esatto, sì. Che differenza c'è tra la psicoterapeuta e lo psicologo? Nessuna. No, come no, lo psicologo è un laureato in psicologia, può essere uno psicologo del lavoro, dell'educazione, può fare formazione, non è necessariamente capace di fare psicoterapia. La psicoterapia è una specializzazione ulteriore alla psicologia. Sì, tu quanti pazienti hai? In questo momento non ne ho molti perché mi dedico, sto cercando di ridurre un po' il lavoro perché ho quasi 50 anni e sono un po' stanca, per cui ne ho 4-5 e... Però belli tosti, Elisabetta. Beh, insomma. Cioè, sì. Per averne 4-5 ti impegnano. Sì, poi faccio anche altro. Senti, quindi la crisi picchia duro anche per quello? Oppure. Beh, sicuramente. C'è stato un aumento o una diminuzione? La psicoterapia è costoso, quindi non tutti se lo possono permettere. Quanto viene un'ora di psicoterapia? Guarda, dipende se sei onesto o no. Se hai una persona che ha un programma di fare. Beh, nel senso che ci sono psicologi che chiedono delle cifre astronomiche. Tipo? Ma anche 150 euro all'ora per due volte alla settimana, moltiplicalo per 8 volte al mese. Uno, sì, devi fare un mutuo, euro. Certo. Diciamo che sugli 80-90 euro è una cifra... Senti, e tu com'è che hai cominciato? Com'è che hai deciso di fare questo mestiere? Ma io ho iniziato fin da ragazzina, appunto, mi piaceva ascoltare le persone, e mi piaceva cercare di capire cosa avessero in mente. Anch'io sono una che gli racconterò le cose anche le cassiere dei supermercati, le bariste, insomma. C'è una tipologia di persone per cui ce n'è più di una. Io sono il tipo a cui raccontano tutto. Probabilmente sì. Senti Elisabetta, dove sei in questo momento? Con le quattro frecce sento. Sì, mi sono fermata perché faccio la persona seria e quando brava. Devo parlare al telefono mi ti fermo. Elisabetta, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Enzo mi dice che anche da tassista ne confessa di gente. Grazie a lui, grazie a quelli che sono intervenuti, a Vittorio Mussini, a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e ad Alessandro Genovesi. Sono le 16:44 minuti, io oggi ho giocato un'ora al solitario sul computer, ho inviato 6 sms e 4 email, ho letto 2 giornali e scaricato 10 foto per... E voi dove siete? Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?